casa con i suoi collaboratori, si comincia. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. L'ex giocatore del Valencia si crea lo spazio per il cross, lo effettua, primo palo, Thiago Alcantara, è 1-0 per il Bayern Monaco, come all'andata. Lahm, Müller, Lewandowski, un gol fantastico, un'azione fantastica, è già 3-0. Xabi Alonso, e questa volta è buona la punizione, c'è anche la firma di Xabi Alonso. Ci sono tante guerre che lottare, devi scegliere quelle guerre che sono importanti, e le uniche guerre importanti sono i giocatori, convincerli, lavorare con loro, abbracciarli, baciarli, gridarli e strapparli anche il pantalone se è il caso. L'importante è stare solo per loro, tutti gli altri è parte del gioco che sappiamo che c'è, che ci rende anche felice, perché fare una professione dove tanta gente l'entusiasma è un piacere enorme, ma alla fine non puoi perdere energie con cose che tu non puoi controllare, soltanto fare con i tuoi giocatori. 800 24 00 24, io non so se bisogna abbracciare, baciare i giocatori, strapparsi i pantaloni come ha fatto ieri Guardiola per ottenere quello che ha ottenuto dal suo Bayern Monaco. Tre giorni fa eravamo qui a parlare della crisi, del medico mandato via che adesso potrebbe tornare, dell'ammutinamento dei giocatori. Io non lo so se bisogna baciarli i giocatori, però ieri sera il Bayern è stato un bello spettacolo. Ciao Pardo. Pier, eccoci qua, come va? Bene, dove sei? Sono quasi a Roma, sto arrivando adesso. Quasi a Roma, visto Bayern ieri, bello spettacolo, sì. Beh, una roba grandiosa, una rimonta grandiosa, un atteggiamento da grandissima strada fin dai primi minuti, completamente diverso rispetto a quello di Porto. Porto era stata una partita strana, in effetti, perché sono stati due errori banali e molto simili nei primi minuti che avevano condizionato la partita, però soprattutto al secondo tempo avevamo avuto la di una squadra imperfetta dopo 2-1, insomma le cose non si erano sistemate. Ieri però spazza via tutto, riproietta un'immagine grandiosa. Sì, sai come ha titolato la Bild oggi? No, Torgasmus, dove Tor significa rete e in tedesco, e orgasmus significa come l'italiano, giusto? No, beh, è stato un piccolo orgasmo il primo tempo ieri del Bayern di Monaco. Sì, no, passo anche i bagagli alla signora, vediamo un momento di grandissima. Ecco, signora, prego, nei bagagli. Buona giornata. Radio 24 la sente? Sente Radio 24? No, non la sento. No, peccato. Rimonta immediatamente i bagagli della signora, esatto, così impara, esatto. No? Alla prossima volta, signora, sai che le dico? Riporta la zona. Non credo. No, ho letto anche da qualche parte che un simpatico scherzo ha fatto sì che praticamente su YouPorn tedesco abbiano inserito i gol del Bayern, sì, non so se perché è stato appunto un orgasmo talmente grande che confina con le pratiche sessuali o se, insomma, semplicemente per un errore. Però adesso mandiamo il nostro Daniele Bonamici a controllare. Giuro che l'ho letto, giuro che l'ho letto, non è che mi sono imbattuto, tengo a precisare questa cosa, non ci sarebbe niente di male, ma l'ho letto da qualche parte su Twitter. Quindi no, è chiaro che il Bayern di ieri sera pariglia tutto, nel senso che torna a essere un'eventuale difficoltà in più per la Juve, se dovesse passare il stadio. Ma insomma, dai, si sia in ballo. Anche se non ci eravamo mai illusi che il Bayern uscisse dal Porto, diciamo la verità. Voglio dire, era abbastanza stretta la strada di poter dire semifinale col Porto e poi finale con l'Atletico Madrid, magari. Ammesso poi che sia così più semplice. Si arriva a un certo punto in cui, non mi ricordo chi qualche giorno fa lo diceva, è anche bello l'idea, è anche bella l'idea magari di poter arrivare in semifinale stasera per la Juve e di appartenere proprio al gota del calcio europeo con le quattro migliori squadre con il pedigree giusto, insomma. Quindi arriva il momento che è anche giusto confrontarsi con loro. Questa sera la Juve, ti faccio sentire Allegri, poi abbiamo tempo di parlarne, stiamo insieme fino alle 15:30. Allegri che non è tanto sicuro dopo l'1-0 dell'andata. Io credo che sarà una partita equilibrata perché il risultato è aperto da entrambe le squadre. Noi dovremmo giocare cercando di gestire la partita, ma gestire vuol dire prendendo il comando del gioco, se ci riusciamo, e dobbiamo riuscirci, sapendo che il Monaco ha delle caratteristiche importanti sia fisiche che tecniche, soprattutto con i giocatori davanti. Fa bene essere prudente, Pierre. Ma certo, il Monaco ha dimostrato all'andata di essere una persona molto insidiosa. L'1-0 è un buon risultato, ma non è un risultato strepitoso. Io mi ricordo che ero con Carlo in studio il giorno di Juve Monaco e avevo detto che non avrei firmato il 1-0, che avrei firmato solo il 2-0. Il 1-0 è un risultato oggettivamente, statisticamente di grande incertezza, soprattutto l'1-0 ovviamente è ottenuto in casa e quindi la partita di ritorno a giocare fuori. Non è semplice. Sì, però la Juve ha tutto per passare questa sera. È superiore al Monaco. E io credo che anche quello che abbiamo visto ieri sera, Pierre, dice che a questi livelli poi le differenze contano. Tra l'altro, non aver subito gol in casa, sappiamo che è una cosa molto importante. Cioè, è un vantaggio. È un risultato che ti dà la possibilità di aspettare di partire, anche se poi, appunto, ho sentito ieri la conferenza di Allegri. Io penso che lui non voglia assolutamente non avere il controllo del gioco. Non credo che sia una frase di circostanza quella. Sì, non ti aspetti una Juve che starà lì ad attendere il Monaco, no. Vedere se si scopre, se lascia spazio a qualche contropiede. Se non nei limiti in cui chiaramente questo possa rappresentare un vantaggio tattico in termini di spazio. È ovvio che se tu hai vinto 1-0 l'andata e ci sta come dinamica il fatto di aspettare. Ma un conto è un'attesa passiva perché si schianta, un conto è un'attesa invece matura, consapevole e strategica per avere degli spazi per colpire in contropiede. Sì, per sfruttare il fatto che l'1-0 dell'andata ti mette in queste condizioni. C'è il traffico 800-24-0024, da questo momento telefoni aperti. Vogliamo sapere il vostro pronostico, visto Pierre che scrive un amico che ieri avete sbagliato tutti i risultati. Allora, i risultati, il pronostico lo fate voi. 800-24-0024, traffico. Sì, un avvio abbastanza scoppiettante, laser, fumogeni e bomboni. Tutti convocati. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Tutti convocati. Che bello! Che bello! Pier, meglio in campo che sì. Con il megafono in mano. Bello, l'inno del Bayern. Bello, molto bello. Molto bello. Senti qua. Aspetta che proviamo a chiedere anche ad Antonio Filippini se lo sa. Ciao Antonio. Ciao a tutti. Antonio, non ho mai giocato nel Bayern, non lo so. Però sei musicista. Puoi cantarlo in bresciano, è difficile. Da musicista, possiamo dire che è uno degli inni più belli d'Europa. Sì, in effetti sì. Io metto in testa quello della bello. Roma, che secondo me è meraviglioso. È il numero uno assoluto. Roma. Poi c'è. Poi non so, c'è. C'è bello, diciamo, quello del Barcellona anche, che davvero mette i brividi quando lo cantano in 100.000. Quando lo cantano così tante persone e con una melodia molto bella, è un cocktail perfetto per far diventare un bellissimo inno. Di quelli della Lazio, tu da che parte stai? Ma infatti parlavate del inno della Roma, non ho detto nulla perché... permetti bello quello della Lazio, ma alla grande. Sì, se no non ti fanno entrare. Quale? Sono già due ore. Qual è il più bello dell'inno della Lazio? Perché ne girano diverse versioni. Ma è quello là, quello della Lazio, non mi ricordo un po' la melodia e dunque fammi pensare, non mi ricordo la melodia, ci devo pensare un attimo. Allora, se qualcuno vuole aiutare Antonio Filippini, 800 24 0024, bisogna ricordare l'inno della Lazio. No, però due, c'è quello che va via nel cielo e poi c'è quello sotto. Anche a Roma ce ne sono diverse Roma versioni. La partita fa Roma-Roma e a fine partita fa Grasse-Roma. Però devo dire che ormai quasi tutte le squadre hanno gli inni moderni, a parte il Milan, con tutto rispetto per il compagno Toni Rennis. No, a parte le battute, insomma, però voglio dire che. Sì, ma a breve sarà cantato in cinese. Dici la Fiorentina, ma insieme alla Firenze c'è ancora lì l'abaro viola, insomma. Ce ne sono tanti belli. È vero, è bello anche quello della Fiorentina. Quando giocavo in belli stadi, comunque era bello sentirli, perché anche la gente, gli spettatori, i tifosi lo cantavano tutti insieme, per cui era veramente emozionante. Sì, ovviamente io chiedo scusa a tutti. Noi abbiamo dimenticato You Never Walk Alone del Liverpool. Che è primo per distacco, non l'abbiamo citato perché lo davamo per scontato. You Never Walk Alone. Tra l'altro, ma poi parliamo anche di Guardiola o Pierre. Guardiola. No, abbiamo chiamato Antonio perché Antonio, oltre che amico, è uno studioso di Guardiola. Sì, sono stato insieme a mio fratello a Monaco per una settimana e oltre a essere amici, per noi la sua filosofia di calcio è quella che ti fa fare la differenza nel calcio moderno. Infatti ieri sera si è visto proprio un Bayer schiaccia Sassi e veramente è un bel vedere quando giocano così, con quella intensità. Sì, tu l'hai sentito prima, ha detto i giocatori bisogna abbracciarli, baciarli, fare tutto per loro, cioè non è solo una questione tattica. No, bisogna i giocatori, bisogna il più possibile non coccolarli, però gratificarli, farli sentire che sono importanti per la squadra e così facendo possono veramente fare la differenza. Pier, sei d'accordo che quella di ieri sera è la vittoria di Guardiola più che del Bayern? Perché quello era un Bayern senza Robben, Ribéry, Alaba, sì. Schweinsteiger. Io ieri sera sono stato lapidato su Twitter a un certo punto per aver scritto che una buona parte di quelli di ieri, fuori da quel contesto, probabilmente non farebbero fare il salto di qualità, non farebbero fare la differenza a nessuna squadra grande, si intende ovviamente. Però è la verità, Rafinha, Bernat, Bastuber non sono giocatori di quel livello lì. Evidentemente Guardiola gli dà qualcosa in più. Guardiola ha un materiale umano enorme, poi in questo momento ci sono gli infortuni sicuramente che un po' lo limitano, ma lui dà un valore aggiunto, è un valore aggiunto. Guarda, io ho sentito che diceva Antonio, io penso che ridurre il guardiolismo a pura tattica, a puro studio del tiki-taka o del tiki-taka, preferite, è molto riduttivo. Cioè io credo che Guardiola, chiaramente Antonio lo conosce meglio di me, Guardiola sia un grande personaggio, sia un grande uomo nel senso che non so moralmente, ma dico da un punto di vista delle motivazioni che riesce a dare ai giocatori, io credo che sia straordinario e penso che ridurre tutto a un aspetto strettamente tattico sarebbe sbagliato. Insomma, quella filosofia di gioco è stata così vincente perché ha trovato degli interpreti anche di grande livello, così disposti al sacrificio, anche perché uno dei meccanismi fondamentali del tiki-taka è il tentativo di recuperare subito il pallone appena lo perdi, il fatto che non indietreggi ma vai avanti. Si è visto anche ieri nei rari momenti in cui il pallone non c'è avuto il Bayern, chiaramente serve la condizione fisica, serve una buona quantità di coraggio, perché praticamente è come quando sci, no? Quando sci che devi avere il corpo in avanti anche se l'istinto ti porterebbe a stare indietro col corpo perché hai paura del vuoto. Allo stesso modo riuscire ad andare subito a riprestare appena perdi il pallone è esattamente la stessa cosa. Sì, ha impressionato Antonio, no? Anche quella serie di 26 tocchi consecutivi a metà del primo tempo sul 2-0, quindi partita ancora aperta, immagine migliore del guardiolismo in senso positivo. Sì, beh, diciamo che questo gioco, questo possesso palla è sempre stato contraddistinto dalle squadre di Guardiola, e questo modo di giocare va allenato giorno dopo giorno con dei possessi palla caratteristici, quelli dei giochi di posizione. Però ovviamente, detto questo, secondo me la forza del Bayern è, come diceva prima il collega, nella fase di transizione, quando perdono palla, sono talmente aggressivi che riescono a recuperare prima la palla e sono più vicini alla porta avversaria. Se notiamo il terzo gol di Lewandowski, ha rubato palla vicino all'area di rigore avversaria e Müller ha fatto l'assist a Lewandowski e ha fatto gol, per cui non c'è solo il possesso palla ma anche questa aggressività impressionante per recuperare palla subito. Sì, Bayern oggi è il meglio che c'è in Europa, o magari visto anche il Barcellona ieri sera che non ha fatto una partita banale e forse con un avversario superiore al Porto, la storia di questa Champions non è ancora scritta. Ma non è ancora scritta, perché stasera e ieri sera hanno giocato Barcellona e Bayern, sono due delle squadre più forti in Europa, però stasera gioca anche il Real Madrid e l'Atletico Madrid, che se la giocano alla grande con queste due squadre. Poi sì. E la Juve? La Juve in Monaco è una partita che non si sa neanche ancora chi passa, perché è molto livellata, però secondo me tutte e due le squadre sono un gradino sotto rispetto alle quattro citate prima. Sì, anche se Pier, ma poi dopo il meteo, dopo la borsa ne parliamo, io ricordo come arrivò il Barcellona del 2010 alla semifinale con l'Inter, e mi sembra che il paragone con questo Bayern Monaco possa starci, e ricordiamo tutti come finì quella semifinale. Aspetta, guarda, prima di salutare Antonio, perché poi c'è la borsa, c'è però un amico che ha scritto che il miglior inno di tutti è quello del Brescia, Gnari. Beh, ovvio, dai, quelle... Antonio, è tuo. Giù nel campo i miei eroi. Quella rondine sul petto. Qua Omar Pedrini andava alla grande, va ancora alla grande. È dei Timoria, giusto? Sì, dei Timoria, aveva fatto l'inno e qualche volta quando suonavamo insieme nelle serate facevamo questa canzone ed era molto bello far cantare tutti i tifosi al seguito. Che si chiama Gnari, che in bresciano Gnari, significa Gnari. Ragazzi. Bravi ragazzi. Bravi ragazzi, bravi ragazzi, insomma. Ti saluto Antonio, ciao. Grazie, Gnari. Alla prossima, ciao. 800 24 00 24, andiamo alla borsa sull'inno del Brescia. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Convocati. Penetrano il buio, ispirando terrore e superstizione. Questi guerrieri spaventosi sono i gufi, la morte con le ali. Pieno di gufi, anche via sms, 349-238-6666. L'amico scrive: Gnari in padovano vuol dire nidi. Sono Paolo, stasera tutti a tifare Juventus, auguri. Insomma. Allora, ci sono i gufi, ci sono i tifosi. Poi c'è chi ci dice che siamo veramente poco obiettivi, Pier, perché non abbiamo citato l'inno dell'Inter. Ma sì, no, ma c'è l'Inter, ma c'è anche la Juve, Paolo. Stanno arrivando i gialloblu, Michele da Verona. Adesso scusate, faccio una mozione d'ordine, come si diceva nelle vecchie assemblee. Ecco, non possiamo adesso parlare tutti gli idei del mondo. Ci siamo imperagati, abbiamo fatto un'eccezione per You Never Walk Alone del Liverpool, che avevamo dimenticato. Sì, che poi è anche del Celtic, anche di varie altre squadre. You Never Walk Alone in realtà non è una canzone solo del Liverpool, è una canzone vera e propria che i tifosi del Liverpool hanno adottato, anche quelli del Celtic, e anche altre, ne ho fatta anche una di recente che non mi ricordo quale fosse. Sì, la cantano in tanti. Poi ricordi la prima volta che abbiamo Cravero in onda, che dobbiamo fargli intonare l'inno del Toro. perché Giuseppe da Torino dice è bravissimo e l'inno è bellissimo. Guarda Toro e Forza Toro. Sì, però lo voleva da Cravero, però lo voleva da Capitan Cravero. Il toro quando vai lì c'è tutta una serie di, è tipo una compilation, ci sono 7-8 canzoni diverse, cominciano un'ora prima della partita, molto bello. Beh, poi c'è anche Lettera d'Amsterdam della Samp, che è un inno pazzesco, Sì, ce ne sono tanti belli. Siamo partiti da quello del Bayern. Dai, Paolo da Terni, 800 24 00 24. Paolo, buonasera, eccoci. Salve, io prima di tutto volevo salutare il medico Pierre, perché è un grande, l'unico grande che è rimasto, che trasmette in televisione. Perciò un saluto. Grande, grande e grosso, Pierre. Grande e grosso, sì, bravo. Sì. Grazie. Io sono un juventino, il giorno che il nostro capitano, unico capitano, ha smesso di giocare, non gliel'ho fatta, ho pianto e non finirò mai di ringraziarlo, perché quello che vedevo lo vedevo, però per come l'ha messa, perché solo i grandi riescono a fare queste emozioni, a trasmettere queste emozioni. Perciò io grazie, e stasera gioca la Juventus, forza Juve, io mi auguro, insomma, che è una bella partita. Sì. Se poi arriviamo in semifinale, mi dispiace per i miei amici juventini, queste vedove del precedente allenatore, e già siamo un bel pezzo avanti, Di sicuro, se Allegri Pierre andasse in semifinale, metterebbe una pietra tombale sul paragone, quello scomodo che ha vissuto per tutta la stagione. Direi di sì, ed sarebbe la dimostrazione che, insomma, che era bravo, che non era colpa sua al Milan, perlomeno non era solo colpa sua al Milan, e che stiamo parlando come immaginavamo che potesse essere di un ottimo allenatore. Detto questo, io poi mi aspettavo che quest'anno ci sarebbe stata più lotta anche in campionato, perché mi aspettavo una Roma oggettivamente diversa e un Napoli più competitivo in campionato. Questo non è successo, però non toglie nulla ai meriti di Allegri. Allegri è un allenatore che è riuscito, secondo me, con grande intelligenza a calarsi nel ruolo di quello che veniva dopo, e che alcune cose, soprattutto all'inizio, le ha tenute per non togliere certezza ai giocatori. E poi però ha proposto anche la sua idea di calcio, e l'ha fatto, che è un'idea diversa da quella di Conte, ma bravi tutte e due. Insomma, io non capisco che siamo continuamente a caccia di del confronto. Però in realtà sicuramente se Allegri stasera passa al turno fa meglio di Conte, sì, ma a me pare che Allegri si sia preso definitivamente la Juve nella notte di Dortmund. Da lì in poi ha poco senso continuare il paragone con quella di Conte, che aveva milioni di pregi, anche qualche difetto, esattamente come questa di Allegri. E al tempo stesso però non dimentichiamoci, proprio perché appunto i paragoni faccia fatica a farli, che Conte è arrivato ed era tutta campagna, come si dice, no? Cioè non c'era niente, questa squadra, quindi è chiaro che se Allegri stasera passa al turno supera dal punto di vista statistico il risultato di Conte, su questo non ci sono dubbi, ma è altrettanto vero che ogni stagione fa stare a sé, e che Allegri, se ha questa squadra a disposizione, sta facendo così bene, lo deve anche ai 3 anni precedenti nei quali Conte l'ha allenata molto bene. Quindi veramente capisco che è divertente il giochino, ma secondo me è molto difficile dire più bravo uno, più bravo l'altro. Sono due allenatori che hanno fatto benissimo, e secondo me, come diciamo l'altro giorno con lo zio Bergomi, la Juve può andare avanti almeno in Italia a lungo. Sì, perché non si vede nessuno che sia in grado di colmare il gap. Il Napoli, se riesce a sistemare le cose, trova un paio di difensori importantissimi. La Roma un anno dopo sembra che debba fare quasi una rifondazione, fa abbastanza ridere, no? Da un certo punto di vista. La Lazio ha una grande base in prospettiva, ma non mi sembra comparabile con quella della Juve. Poi insomma sì, dei milanesi, siamo ai programmi, torneremo competitivi, ma sì, vedremo anche che lingua parleranno. Michele dalla provincia di Ferrara, poi andiamo a Monte Carlo. Michele. Sì, buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione, perché la verità è che quando si dicono le cose come vanno dette è sempre bello ascoltarvi. Niente, per quanto riguarda le partite di stasera, la Juve, come diceva prima il nostro caro ascoltatore, è vero, sì, ha un'ossatura che viene da anni indietro, che si è costruita. Conte, Allegri, due allenatori completamente diversi, uno molto più carismatico, l'altro quasi tendenzialmente, diciamo così, molto molto molto calmo. Secondo me la Juve ha dal suo vantaggio un fattore in più ai giocatori, che sono un po' più motivati, ha avuto qualche innesto più importante rispetto a altre stagioni. Sì, c'è un po' anche la sensazione che sia il culmine di un ciclo, no, Pier, questa Juve, sì, cioè se lo vince quest'anno bene, se no comunque qualcosa andrà ricostruito. Ma sì, ma io sono Juve. Un po' per mercato, un po' per questioni di età, ma lo scriveva ieri Crosetti su Repubblica. Qualche giocatore sicuramente sta andando su con l'età, è impensabile che per esempio il trio difensivo possa continuare a questi livelli ancora per 3-4 anni, no? È chiaro che ci sarà appunto l'anagrafe che porterà il suo conto. Però io penso anche che la Juve abbia oggi delle ottime prospettive se si muove bene per risolvere le situazioni, per esempio, insomma, chiaro, Pogba nessuno lo vuole sacrificare, ma se dovesse essere un sacrificio che ti porta 80 milioni di euro con i quali compri un super attaccante, un grande centrocampista, insomma, nessuno, cioè la Juve ha vinto dopo aver venduto Zidane. Ci sarebbe certamente la possibilità di fare una Juve più forte. Il problema non è vendere Pogba, il problema è usare bene i soldi e costruire una Juve che possa poi proseguire in questo ciclo. Sul concetto di carisma, non volevo fare un discorso, diciamo, da linguista e bacchettare l'ascoltatore, per carità, però ecco, lui ha detto questa cosa che ci stanno, ha detto uno molto più carismatico, l'altro molto più caldo. In realtà poi spesso noi tendiamo a pensare che il carisma per forza debba accompagnarsi con un certo tipo di furia, con una mascella in fuori, alla Capello, alla Conte. Poi ci sono allenatori diversi che hanno altrettanto carisma, come Massimiliano Allegri, come Carlo Ancelotti, per citare ad esempio forse del più vincente di tutti, e che però hanno un atteggiamento molto più calmo. Ma non dico che sbaglia l'ascoltatore, dico che molto spesso noi abbiamo questa tendenza a pensare che per forza per ottenere le cose devi battere i pugni sul tavolo e devi avere un certo tipo di atteggiamento. Sì, non risulta che Maldini fosse uno che alzasse molto la voce in spogliatoio, Paolo Maldini l'ha comandato per decenni, ad esempio, appunto, lo spogliatoio del Milan. Ognuno è se stesso, no? E quindi poi la forza sta proprio in quello. Anche Guardiola non mi sembra esattamente un sergente di ferro, ma sono convinto che è uno che, se si deve far sentire, esattamente come Ancelotti o come Allegri, è uno che si fa sentire nel chiuso dello spogliatoio. Quindi esistono, ma questo viene studiato anche per chi studia, per esempio, risorse umane, no? Dei vari tipi di leadership, riguarda anche i capitani d'impresa, riguarda anche le aziende, per dirti, no? La leadership, la capacità di convincere. Di convincere, la capacità di portare con sé le persone, di motivarle, è la caratteristica fondamentale, e ognuno ha un suo modo per ottenerla. La verità è che Conte e Allegri, con leadership e stili di leadership diversi, però sono tutti e due molto bravi. Il risultato lo stanno ottenendo. Flavio D'Aosta, Flavio. Buongiorno, io sono in grande magazzino, quindi non ho seguito la radio ultimamente. Vorrei parlare un secondo dei falli involontari, se è possibile. Buongiorno a tutti, sì. E grazie per la convocazione. Rimango allibito quando degli ex calciatori, a parte gli opinionisti, ma ex calciatori continuano a ribadire che un fallo involontario non deve essere sanzionato con un rigore o con... se io ti stai riferendo al fallo di mano di Antonelli, per restare alla strettissima attualità? No, non mi riferisco a quello, mi riferisco a qualunque fallo. Se uno è in area e io gli sposto la palla e questo entra e mi prende una gamba, anche se è involontario, io penso che deve essere sanzionato in ogni caso, magari sì, non sarà è il concetto dell'anno procurato. Dopodiché, per il fallo di mano, per quella fattispecie, la volontarietà continua a essere prevista dal regolamento, ma poi ci sono anche altri parametri, Pier. Il problema è che il regolamento continua a cambiare nelle interpretazioni, il che non rende semplice la vita né agli arbitri e ai loro assistenti, nemmeno a noi giornalisti, diciamo la verità. No, ma assolutamente, però ecco, appunto, hai detto benissimo, cioè un conto sono i falli non di mano, c'è il danno procurato, se tu intervieni, se sbagli il tempo di un intervento, magari onestamente volevi prendere il pallone e prendi la gamba all'avversario, è rigore tutta la vita, ma non so chi è che dica il contrario, sinceramente. Per quanto riguarda il fallo di mano, invece c'è questo studio psicoanalitico di che cosa aveva in mente il giocatore, che chiaramente si presta a tutta una serie di interpretazioni molto molto discutibili. Sì, posto che poi ieri sul Corriere dello Sport abbiamo scoperto che Banti pensava che Antonelli avesse il braccio attaccato al corpo, quindi non ha fischiato calcio di rigore, viste le immagini. Evidentemente gli è rimasta nella retina un'immagine sbagliata, ma può capitare a quella velocità, giusto per restare all'ultimo caso, quello che ha fatto molto discutere dopo il derby. Sì, ma assolutamente, io ti dico, poi è evidente che se l'arbitro fosse stato in malafede, perché tanto poi di questo di cui si parla, dava il gol al Milan, no? Quello su quel fuorigioco che c'era, però voglio dire, se vuoi, quindi io dico che la malafede per me è un concetto proprio inaccettabile, assolutamente inaccettabile. Si sbaglia, non è facile, gli arbitri sbagliano. Ciao Pier. Ciao, ciao, ciao. A domani, traffico. Iniesta. Se la cavano con disinvoltura, zio, anche quando sono in difficoltà questi. Iniesta. Mette a sedere un paio d'avversari, avanza l'illusionista, serve Neymar, Neymar, la porta è vuota, è un gol fantastico del Barcellona, di una squadra fantastica, lo firma Neymar. Tutti convocati. Tutti convocati. Poi Trezeguet sulla destra, la palla sbistata, Nedved, attenzione, cerca il fondo, pallonetto, poi arriva ad alta, Del Piero, gol! Gol! Gol di Trezeguet! Penso che l'obiettivo di ritornare nelle quattro d'Europa sarebbe un obiettivo importante che i ragazzi raggiungerebbero con pieno merito. Dopo che la Juventus credo che sia dal 2003 che non raggiunge questo traguardo, dopo un'annata dove non è ancora conclusa perché mancano ancora un mese e mezzo con obiettivi da raggiungere, però siamo vicini allo scudetto, abbiamo la finale di Coppa Italia da giocare, quindi credo che bisognerà essere molto bravi domani sera a raggiungere, a fare un altro passettino avanti, poi dopo vediamo. Zambrotta, scudetto, buone, buone, buone con il Contasini per me. Questa gara che vuol dire tanto, per chi c'era e per chi c'è adesso, perché significherebbe aprire delle porte principali sul giardino dell'Europa, no? Dell'Europa che conta e far parte, se dovessimo passare il turno, delle quattro squadre più forti. Questo sarebbe un bigliettino da visita e un marchio, secondo me, molto, molto importante, che ci farebbe capire che la Juve è cresciuta ed è tornata a tutti gli effetti. Giardino d'Europa che conta, che l'Europa non pratica dal 2003. E allora sulla panchina c'era Marcello Lippi. Saluto Paolo Condò, inviato alla Gazzetta dello Sport nel salotto di Monte Carlo. Ciao Paolo. Eccomi qui, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. In realtà sono ancora a Nizza, perché col prezzo degli alberghi di Monte Carlo, come sai, i giornali non sono più quelli di una volta. Insomma, anche a Nizza ce la possiamo passare. Mi sono fatto un pranzo di crostacei fantastico. Fantastico. Si fa un po' fatica, Paolo, almeno io ho questa percezione, a viverla come una vigilia di un quarto di finale di Champions League. Sarà un po' anche l'atmosfera di Monte Carlo, di Nizza, insomma. È un salotto, sarà un salotto questa sera allo stadio, lo sappiamo, magari ci saranno anche più tifosi della Juve rispetto ai tifosi del Monaco. Si fa un po' fatica a viverla come una grande vigilia europea. Ma tu dici, in realtà la possibilità del traguardo delle prime quattro mette comunque molta adrenalina in corpo a tutti. Così, io scherzando dal punto di vista turistico, ma vale anche dal punto di vista sportivo, Borussia Dortmund e Monaco venivano vendute in pacchetto, nel senso sì, che due al prezzo di uno. No, due prezzi di uno, come Dortmund è orrenda e qui la Riviera a Costa Azzurra è meravigliosa, allo stesso modo penso che il Borussia Dortmund sia stato anche poi in sede di commento molto sottostimato, nel senso in tanti hanno detto non è più la squadra di una volta, d'accordo, ha perso Lewandowski rispetto alla stagione e Gozze rispetto alla stagione della finale, però comunque resta un'ottima squadra e trovo che la Juventus abbia fatto un gran lavoro nel buttarla fuori con quella come dire, alla fine facilità, alla fine, però insomma allo stesso modo Paolo, io ho detto prima allo stesso modo il Monaco probabilmente è più debole del Borussia Dortmund, e allo stesso modo ho detto prima gli juventini farebbero bene a non spaventarsi troppo per quello che hanno visto ieri sera. Ricordiamo anche cos'era ad esempio, sì, il Barcellona, certo, del 2010, e poi insomma quando arrivò a giocarsi la semifinale è andata come sappiamo. Se mai la Juve dovesse entrare in quel giardino e dovesse affrontare questi grandi mostri, la Juventus non è il porto, però bisogna passare per questa sera. La Juventus è attrezzata certo, per entrare fra le prime quattro e per dare fastidio alle altre tre, se sarà così brava ad arrivare fra le prime quattro questa sera. Sì, fa bene Allegri a essere prudente? Ho letto e ho sentito, ha parlato di partita ancora aperta, per carità, dal punto di vista numerico non c'è dubbio, così come non c'è dubbio che chiudere l'andata senza prendere gol era esattamente lo scenario migliore che era stato disegnato per la Juve. Sì, questa è un'eliminatoria che fin dall'avvio, fin da prima della prima partita, si presentava come un'eliminatoria con pochi gol, perché sono due squadre che subiscono pochissimo e non segnano molto, soprattutto il Monaco. È chiaro che il fatto di aver concluso a zero la casella dei gol subiti in casa è il vero grande vantaggio della Juventus questa sera, e siccome questo è il grande vantaggio io mi aspetto una partita molto tattica. Di solito le gare di ritorno non lo sono, invece mi aspetto una partita molto tattica, perché secondo me Jardim non andrà all'attacco all'inizio, ma Jardim si riserverà una finestra di gara, immagino nel finale, per provare a fare quel gol che li porta ai supplementari. Sì, tu oggi scrivevi, va bene il 3-5-2 della Juve, a patto che non sia un sintomo di prudenza, di debolezza. Anche col 3-5-2 si deve poter fare la partita. No, ti aspetti che non lo sia? Mi aspetto che non lo sia, però mi aspetto comunque che Allegri non vada all'attacco con decisione fin dall'inizio, ma insomma diciamo provi ovviamente le manovre offensive, però tenendo quei tre belli fissi dietro per non farsi mai trovare scoperto, perché se ti ricordi nel primo quarto d'ora, 20 minuti della gara d'andata, la Juve ha corso un paio di rischi, uno grossissimo e un altro diciamo di livello medio, perché il controllo sono veloci, sono molto veloci, sono molto incisivi. Per fortuna sono mancati Ferreira, Carrasco è mancato al momento giusto, quello del tiro in porta, però lì era 1-0 per il Monaco dopo un quarto d'ora. Certo, abbiamo ancora un minuto, detto che io invidio i lettori che questa mattina hanno avuto Marca tra le mani con una meravigliosa prima pagina che vi invito a cercare. L'ho vista. Meravigliosa. Ti chiedo chi passa tra Carletto e Diego Pablo, Real Atletico. Ma per il mio amico Carletto ho molta paura proprio per un discorso non molto diverso. Il fatto di non aver segnato in trasferta, pur avendo dominato gran parte della partita, e il fatto di arrivare ora alla partita in casa con assenze molto gravi, e gli gioca contro perché sì, sai che ricorda a parti invertite il derby Inter Milan del 2003. Esatto, ma hai detto che giusto, Carletto ha costruito esattamente così, cioè facendo uno 0-0 dell'andata, 0-0 in casa e 1-1 in trasferta, dato 0-0 cercato proprio allora, e io per così insomma, per amicizia verso Carletto sarei contento che passasse il Real Madrid, ma io un 1-1 al Bernabeu me lo sento proprio. Sì, ma anche perché non è un caso che nelle ultime 7 volte che si sono incrociate non sia mai uscita una vittoria del Real. Evidentemente Simeone ha tutti gli antivirus che servono. Mai come stasera ci vuole il colpo di Cristiano Ronaldo. Mai come stasera, che giocherà col Cicerito Hernandez, per la disperazione dei tifosi del Real Madrid. Ciao Paolo, buona partita. Ciao Paolo Condò, 800 24 00 24, brevissima pausa oggi, davvero brevissima, poi torniamo. Non si rendono conto che il tempo è finito, finisce qua primo tempo. Tutti convocati. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Sono le 15. Questa edizione di GR24 non va in onda perché è in corso un'assemblea della redazione. Il prossimo giornale radio alle 17. Bene, arrivederci. convocati. Che la squadra si conosce, che è concentrata, che sa che cosa deve fare, è sicuro. Che il ritiro non fa male, perché non fa male un ritiro prima di una partita in trasferta, si è fatto sempre, tutta la vita. Però la mia esperienza dopo allenare squadre che giocano 60 partite è che tante volte hanno bisogno di vedere la famiglia, che è più importante che vedere un compagno ogni giorno. No, ho detto no al Napoli perché ancora non ho visto il progetto, il business plan, e non ho detto niente al Manchester City, che dicono oggi che non è vero. Io sono qui aspettando come professionista per fare il meglio. L'ho fatto anche con il Chelsea, quando sapevo 3 mesi prima che arrivava un altro allenatore, e abbiamo vinto, abbiamo fatto terzo in campionato, abbiamo vinto l'Europa League. Così Rafa Benitez oggi, ha detto anche Benitez, vigilia della gara di ritorno contro il Wolfsburg, gara che dopo il 4-1 dell'andata in terra tedesca è ovviamente chiusa dal punto di vista della qualificazione. Benitez che oggi ha detto anche, si parla del Manchester City, mi piace ma non c'è nessun accordo, non c'è nulla con gli inglesi. Pure ancora questa mattina su parecchi tabloid c'era il faccione di Benitez associato alla panchina del Manchester City. 800 24 00 24, vedremo, io aspetto ancora i vostri pronostici su Monaco-Juventus di questa sera. Ha scritto un amico, Antonio da Cosenza, la Juve è arrivata al capolinea a Monaco, gli juventini potranno solo fare una puntatina al casinò. Io invece credo che la Juve questa sera passa e va in semifinale. Matteo dalla provincia di Modena, Matteo. Sì, salve, buongiorno. Eccoci. Io sono molto molto sereno per stasera. Juventino. Sì, Juventino, è convintissimo che passiamo noi perché siamo più forti, abbiamo il risultato perfetto dell'andata e quindi... Sì, a patto di non considerarsi già in semifinale per grazia ricevuta, Matteo? No, già in semifinale no, però io credo che possiamo far male con Morata, Tevez là davanti, il Monaco non è irresistibile. Per l'altra semifinale vedo l'Atletico favorito semplicemente perché l'anno scorso il Real ha esaurito, diciamo, tutta la sua fortuna in finale con quel gol agli ultimi 10 secondi. Sì, io non ridurrei il lavoro di Ancelotti a Madrid a pura fortuna, anche se è evidente che quando rimetti in piedi una finale di Champions al 93esimo evidentemente hai la sorte dalla tua. Io credo che questa sera Ancelotti sia all'ennesimo bivio della sua carriera, spalle al muro, non è la prima volta, anche a Manchester nel 2003, perché lì Ancelotti ci arrivò da allenatore che non aveva vinto nulla. Anche a Manchester nel 2003 si giocò tutto in una notte. Ecco, questa è una di quelle notti lì, perché è evidente che se il Real dovesse chiudere stasera contro l'Atletico Madrid, molto probabilmente l'anno prossimo sulla panchina del Real ci sarebbe un altro allenatore, perché conosciamo tutti i rapporti con Perez e il fatto che Ancelotti sia sostanzialmente sopportato dal presidente del Real Madrid. Paolo da Varese, Paolo. Ciao. Eccoci. Complimenti per il programma. Allora, volevate un pronostico, vi dico il mio. Secondo me si andrà ai supplementari perché la Juve ha sofferto molto all'andata, però nei supplementari secondo me Bonucci con un gol eccezionale ci fa andare. Un gol eccezionale, Bonucci. un'ultima e sta facendo in questa seconda parte della stagione. Sì, infatti, sì. Infatti. Un'ultima cosa, volevo farvi riflettere su una cosa. Raramente si sono viste 3 squadre così forti in Europa, cioè Barcellona, Real Madrid e il Bayern, cioè mi ricordo il Milan di Sacchi, di Capello, o la Juve di Lippi, o il Manchester United, così. Cosa ne pensate voi? Ma guarda, io penso, Matteo, in parte hai ragione, ed è quel divario che si sta scavando sempre di più tra i più forti e più ricchi e tutti gli altri, compresa la classe media. Però ripeto, attenzione prima di considerare quello che abbiamo visto anche ieri sera come un valore assoluto. Ieri sera abbiamo visto uno straordinario Bayern nei primi 45 minuti, anche aiutato da un Porto che ha fatto di tutto per spianare la strada alla squadra di Guardiola. Mi fate sentire velocemente Ancelotti e Simeone? En los meses pasados lo hemos tenido en partidos importantes el año pasado, en una semifinal no hemos tenido Bale, en una final no hemos tenido Cristiano, en una otra final no hemos tenido Alonso, entonces convivimos con esto, esto nos va a pregiudicar la confianza que tenemos en este partido, porque el equipo está bien, la plantilla está muy bien, fresca. Estoy cierto que lo que van a jugar van por todos. El entusiasmo, de la gana de los chicos que van a tocarle jugar en el lugar de los que no van a estar, y el entrenador decidirá quién es el más apropiado. Dentro de lo nuestro, la verdad que no cambia mucho, simplemente tenemos una idea, imaginando el partido que pueda presentar el rival, y a partir de ahí iremos en búsqueda de hacerle daño. Questi Ancelotti e Simeone, Simeone che ha anche detto notti come queste non tornano, grande motivatore. Saluto Pietro Lo Monaco. Sì. Salve direttore. Salve. Buongiorno a tutti. Grande motivatore Lo Monaco, che è l'uomo che in Italia e in Europa ha scoperto Simeone come allenatore, lo ha avuto a Catania. In 3 anni ha avuto Mihajlovic, Simeone e Montella, 2010-2013, non male, no? Beh, vuol dire che in qualche modo siamo stati fortunati a individuare 3 tecnici che in questo momento penso si stiano ponendo all'attenzione di tutti come fra i tecnici più bravi, più capaci, seppur diversi nelle loro peculiarità. È solo perché è un grande motivatore che negli ultimi 7 derby Simeone non ne ha perso nessuno con Real? O è anche tecnicamente un allenatore preparato? Allora, tecnicamente è un soggetto, come si suol dire, in via di evoluzione. Io usavo sempre dirgli che era un grandissimo capitano, non giocatore, che stava studiando per diventare un grande allenatore. E la sua caratteristica principale è la capacità di motivare tutti, ma per tutti intendo non solamente i calciatori, ma anche tutti quelli che fanno parte dell'idea, del progetto, i tifosi. Provate ad andare a vedere come si gioca lì al Vicente Calderón di Madrid, è veramente una bolgia. Lui è il motivatore, il conduttore. Sì, è casa sua, forse anche per bravo, questo ha deciso bravo, di legarsi fino al 2020 alla Ferguson. Perfetto, perché lui capisce che effettivamente ha trovato l'ambiente ideale per far risaltare quelle che sono le sue caratteristiche maggiori, e la sua capacità di dare è in quel senso là. Gli altri due sono diversi, per esempio Montella è un soggetto che ha una capacità di esprimere lavoro in campo notevolissima, secondo me fra i più bravi in Europa, quella stessa capacità che riconosco a gente come Bielsa e a pochi altri. Non vedo in giro grandissimi tecnici da un punto di vista della capacità di esprimere. Guardiola che ha detto, lo abbiamo sentito prima, io i giocatori li devo abbracciare, baciare, devo far capire che faccio di tutto per loro. Credo che Simeone li abbracci e li baci, no, i giocatori. No, è un tutt'uno con i calciatori, sa essere uno di loro e all'occorrenza sa essere anche in qualche modo dare le giuste riprensioni, no? Ma ripeto, Guardiola è un caso a parte. Guardiola è riuscito a fare delle cose veramente incredibili, far giocare il Bayern, quindi i tedeschi, il popolo tedesco che è un popolo inquadrato, Oberalles, il cuore oltre l'ostacolo, hanno sempre giocato con queste caratteristiche, no? Ma farle giocare con quei concetti tecnici, con quei concetti di gioco, è l'ennesimo miracolo di Guardiola. Sì, di un uomo che si è presentato la prima volta in conferenza stampa a Monaco e parlava tedesco perfettamente, che settimana scorsa, 3 giorni fa, nel mezzo della bufera, ha detto: no, ma che medico? Il medico non c'entra, se il Bayern perde è colpa mia. Che detto da un allenatore, insomma, ha un significato. E io credo che la risposta di ieri sera non sia una risposta casuale. Oh, no. Però questa mattina noi ci siamo svegliati con sui giornali l'altra notizia del terzo, quello che non abbiamo ancora nominato, Sinisa Mihajlovic, che com'è che direbbe Ferrero? Va via dalla Samp e sposa il Napoli. Ciao Ilaria, un po' che una palla a Matano, ce ne ho messa. Ho voluto unire due forze che sono simili: cinema, calcio, cultura. E questo è il sale della vita. Forza Sampdoria, ne la faccio più. Marco, con Mihajlovic com'è il rapporto? Bellissimo, ci amiamo profondamente. Presidente, c'è Mihajlovic che lo sta ascoltando, quindi sa un annuncio... Mihajlovic, lo amo follemente, Mihajlovic, ecco. Grande mia. Ricambia Mihajlovic. È un amore corrisposto? Io amo mia moglie. Mi spiace, non lo presidente. Dirà mai perché, ma non lo dirà mai perché sennò viene frainteso, no? No, vabbè, ma è ovvio che siamo però su. Però mi ama, io lo so perché è un amore platonico. Certo. Di stima. Ma mi... Di stima. Speriamo che è platonico. Tutti già dicevano Miara perché tre giorni dicono Miara ci se ne va. Tre giorni dicono Mihajlovic lo caccio via, tre giorni dicono Mihajlovic si è comprato la Sampdoria. Cerchiamo di pensare al calcio, no? Abbiamo perso una partita, allora ho potuto tranquillizzare l'ambiente che non c'è niente. Volevo chiedere al presidente Ferrero se ha cambiato idea su Mihajlovic. C'è sempre passione o c'è un po' di distacco? Ma il distacco fa parte dell'amore. E queste sono le massime di Ferrero, che ama Mihajlovic. Mihajlovic ama Ferrero, però anche sua moglie. E però va al Napoli. È l'allenatore giusto per il Napoli? Arrestatelo, o no? Arrestatelo. No, perché? Arrestatelo. Perché? Perché? No, noi ci facciamo le trasmissioni su Ferrero. Parlavo di Ferrero. Io quando lo sento, faccio delle considerazioni veramente. Povero calcio. Ferrero non c'entra proprio niente in questo mondo, sta giocando a fare il personaggio. Però la Samp funziona. Mi piange, la Samp funziona grazie soprattutto alla capacità che ha avuto l'allenatore di tirarla fuori l'anno scorso, se ben ricordate, all'indomani dell'esonero degli Rossi. La Sampdoria era la squadra più accreditata per la retrocessione. Mihajlovic ci ha fatto veramente un miracolo, è riuscito a dare una forza interiore a questa squadra, a trasformare giocatori, vedi Palombo, il giocatore che il difensore Mustafi che hanno venduto in Germania, Gabbiadini stesso che hanno venduto al Napoli, è riuscito a far lievitare la rosa da un punto di vista dei concetti, della capacità di credere in loro stessi, tanto da trasformarsi in una squadra da UEFA. Penso che c'entri poco e niente l'avvento del presidente. Lo misureremo dall'anno prossimo quando sarà orfano di Mihajlovic. È una nota di colore che non penso che il calcio abbia bisogno di queste note, però vuol dire ci sta questo, di questo forse meritiamo, chi lo sa. Ci sta anche Mihajlovic al Napoli, è l'allenatore giusto? Secondo me sì, lo dicevo poc'anzi a qualche amico, se la volontà del Napoli è quella di cambiare il tecnico e la volontà di Benitez è quella di cambiare aria, quindi si è addivenuti all'idea di un divorzio, io penso che sia proprio l'allenatore giusto. Il Napoli ha fatto negli ultimi anni dei buonissimi campionati, si è diciamo così insediato nelle parti alti del nei quartieri alti del nostro calcio e facendo delle buone cose, delle discrete cose anche in campo europeo. Oggi il Napoli ha le qualità, la possibilità, l'ambiente, anche l'indotto per poter ambire al massimo. E secondo me con le caratteristiche di Mihajlovic c'entra l'obiettivo giusto per quanto attiene il tecnico, perché lui è, al di là della capacità di motivare, al di là della capacità che ha di prendere il meglio da ogni giocatore, ha il DNA del vincente, è uno che vuole vincere sempre. Per lui andare a giocare in casa del Bayern il concetto non è quello di andare a limitare i danni, è quello di dire no, andiamo per vincere. Sì, tra l'altro non ha ancora avuto in mano una rosa di alto livello, quindi potrebbe essere un test importante, e quindi l'anno prossimo vedremo il Napoli di Mihajlovic magari contro il Milan di Montella, così chiudiamo il cerchio, se Montella può essere un allenatore con cui costruire un progetto nuovo. L'unica cosa certa è che secondo me le strade di Montella e della Fiorentina potrebbero dividersi, perché dopo 3 anni così anche di buoni risultati mi sembra che il rapporto sia abbastanza si sia insediato su un tran tran di noia fra virgolette, no? Quindi fa bene Montella ad avere l'ambizione di poter andare in altri club e poter lottare per discorsi un po' diversi, no? Così come la Fiorentina di rinnovarsi, perché è anche giusto, ha un ciclo giocatori che forse ha dato tutto quello che aveva, ha un parco giocatori che ha dato tutto. Sì, c'è stata che l'impressione aveva a un certo punto della stagione che il ciclo fosse finito, poi c'è stato Salah, c'è un mercato che ha cambiato un po' il senso dell'annata. Però anche Montella sembra disponibile a fine stagione a ragionare sul futuro. Secondo me sì, quindi con Montella sul mercato potrebbe essere una buona occasione per il Milan, questo sicuramente. Grazie direttore. A voi una buona trasmissione. Grazie a Pietro Lomonaco, l'uomo che ha lanciato sulla panchina, e lo ripeto, in poco meno di 3 anni Mihajlovic, Simeone e Montella. Parliamo ancora della questione ultra. Mi fate sentire Giulini e Boninsegna? Ma io cosa vuol dire connivenza? Che Andrea Cossu per esempio frequenti gli Sconvolts lo sanno tutti, che Daniele Conti li frequenti o non li frequenti io personalmente non lo so, ma che anche se li frequentasse nei suoi momenti liberi io sinceramente, fin quando si presentano in 25, quando siamo ultimi in classifica, a contestare i giocatori e l'allenatore, purtroppo cosa vi posso dire? Sono contento che non siano 1500 come a Bergamo, questo vi posso dire. Se per caso avessero fatto l'errore di entrare in campo oppure negli spogliatoi quando c'ero io assieme a Riva, quel gruppo lì, non sarebbero usciti loro sani, ecco, nel senso che avremmo reso pan per focaccia. Quando ci sono queste eruzioni i giocatori devono tirar fuori le palle, uno se ti dà una sbella con un'idea porci dell'altra guancia, gli devi tirare un cazzotto, ecco, cioè gli ultras devono fare i tifosi, non i teppisti. Così parla Roberto Boninsegna. Saluto Cristiano Gatti, collega del Corriere della Sera. Ciao Cristiano. Buongiorno a tutti. Così parlò Boninsegna. Sì, però temo che il vecchio Bobo non tenga ben conto dell'evoluzione del mondo ultra, perché allora i tifosi erano di una certa pasta, per quanto potessero essere invadenti e prepotenti. Adesso parliamo di un tifo di frange estreme che sono ben più decise, ben più cattive dei tifosi di allora. La posta in gioco è più alta, non ci stancheremo mai di dirlo. Esatto, mentre una volta ai tempi di Boninsegna e Riva è pur vero che comunque si poteva fare simpaticamente a sberle, adesso abbiamo visto la storia recente dimostra che le sberle sono l'ultima, non sono neanche più contemplate, né la famosa scazzottata in tribuna al momento sembra un malinconico amarcord, sì, quasi adesso folcloristico, esatto, ti ricordi una volta quando si faceva cazzotti? Bravo, adesso quasi li rimpiangiamo, adesso siamo alla guerra, adesso siamo alla guerra. Anche le società erano di una pasta diversa, così poi arriviamo al discorso di Cagliari, di Bergamo, ma che io lo dico subito agli amici a casa, non è il Cagliari e l'Atalanta, è la stragrande maggioranza, non diciamo tutti perché qualcosa forse si sta muovendo, ma è la stragrande maggioranza delle nostre società. Anche le società una volta avevano una consistenza diversa nel rapporto con queste frange dei tifosi. Guarda, hai detto la cosa fondamentale, non lo dico per piaggeria al conduttore, ma hai detto la verità assoluta. Bisognerebbe dire no Bergamo, Cagliari, ma bisognerebbe dire tutti a parte Pallotta, forse. Sì, io ci metto anche Lotito, ti dico la verità, sì, che sì, insomma sì, la guerra sul marketing. No, parlo di Pallotta perché sì, è l'ultimo caso, il più eclatante. Lotito già molto prima ha cominciato a vivere con la scorta e con la paura di trovarsi lì sotto casa, per cui gli va dato atto. Ecco, comunque parliamo, come dicevi tu all'inizio, di casi eccezionali, perché la prassi è quella di cercare di lisciare il pelo, di trovare un modo, però di fatto è la paura che li fa diventare padroni. Io uso il termine soci azionisti senza azioni dei club, nel senso che comunque senza avere un'azione le loro decisioni pesano molto, molto sì, più di certe. Credi sia pesata anche quello che è successo a Cagliari, ad esempio, nell'esonero di Zeman? Guarda, Zeman si ostina a dire che questo non ha influito. Io non voglio fare il processo alle intenzioni, per cui prendiamola per buona. Sì, magari lo facciamo sentire. Aspetta, io chiedo a Daniele se c'è. Sì. Lo facciamo sentire, perché poi in realtà su Cagliari ci sono cose che andrebbero raccontate. Sentiamo intanto Zeman. Quindi non ha influito l'ultimo episodio di venerdì scorso in questa sua decisione? Non c'entra proprio niente. Nel calcio succedono queste cose, purtroppo più spesso, e sono frange che prima allontanano la gente dai stadi. È normale che una famiglia o la gente con bambini poi si spaventano di andare allo stadio per problemi fisici, e quindi bisogna cercare di fare qualche cosa per migliorare la situazione. Così parlava Zeman, che poi è andato in questura a raccontare la sua. Oggi abbiamo letto sui giornali, Cristiano, che addirittura la questura pensa che possa esserci qualcosa che lega il rapporto tra alcuni giocatori e gli ultra e quello che è successo venerdì. Noi ovviamente ci auguriamo di no, perché saremmo davvero a un'evoluzione della specie. Sì, però guarda, bisogna essere molto pronti a queste soluzioni, perché oramai è diventato talmente perverso il rapporto tra i giocatori e gli ultra. Sforziamoci di considerare frange minoritarie, tra l'altro, perché è sbagliato parlare di tifo calcistico. Sono frange particolari e molto esigue numericamente, che però sono infinitamente più potenti della maggioranza dei tifosi, proprio per i loro metodi di condizionamento. Io non mi stupirei che ormai l'azionista ultra sia diventato così invasivo da riuscire anche con la connivenza, con la complicità, diciamo, di parti della squadra, della società, di incidere pesantemente nelle scelte. Anche nelle scelte tecniche, anche magari nel mettere le condizioni all'allenatore, di dare le dimissioni. Esatto. Per chiudere, poi ci sono club che, quando arrivano al dunque, al momento quasi della sentenza, ritirano la querela nei confronti degli ultra. Atalanta dice che stiamo strumentalizzando e che tutto era stato deciso mesi prima e che in ogni caso c'è il gesto dei lavori socialmente utili. Diciamo anche che poi il giudice ha assolto quegli ultra per quell'episodio per cui è stata ritirata la querela, quindi abbiamo fatto informazione completa. Resta però che al momento del dunque quella querela è stata ritirata. Guarda, secondo me l'Atalanta ha intrapreso un percorso molto coraggioso e molto rischioso. Coraggioso perché dire con questi signori abbiamo cominciato a dialogare, loro dicono che sono pentiti e noi vogliamo credere loro. Addirittura si offrono per lavori socialmente utili, quindi noi vogliamo dare loro questa chance. In questo senso è coraggioso, però è infinitamente rischioso, perché rischia di essere un segnale di debolezza. Esatto. E rischia di essere interpretato come un segnale di debolezza. E soprattutto rischia di franare al primo incidente che si dovesse ripetere, perché tutto questo sta in piedi, diventa poesia, potrebbe essere persino un modello, no, per uscire, per superare questo impasse in cui nessuno sa cosa fare contro il tifo violento. Ecco, il percorso potrebbe essere quello del dialogo e del recupero, però al primo incidente è chiaro che tutto frana, e allora viene fuori forte di nuovo la sensazione che tutti abbiamo avuto, che questo non sia un bel percorso sociale, umano, innovativo, ma semplicemente una resa per paura. Sì, se poi 10 giorni fa non avessimo visto quello che abbiamo visto allo stadio di Bergamo con il Boccia, capo ultra, esatto, che arringava la squadra, sarebbe stato meglio. Ciao Cristiano. Buon lavoro a voi, buongiorno. Cristiano Gatti del Corriere della Sera, noi ci fermiamo. Francesco da Siena, chiedo umilmente scusa. Domani dopo le ore 14 Dovrebbe tornare Carlo Genta? Dovrebbe tornare Carlo Genta con Pierluigi Pardo. Io ringrazio e saluto Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Buonamici autore di questa puntata, Alessandro Marco Tulli in redazione. Ciao, a domani. Gli altri vengono al campo per rompere le scatole. Eh sì, così massacriamo tutti. Eh sì, massacrate, massacrate. Infatti, bel lavoro questo qua, bel lavoro. Complimenti. Gufi, state a casa. Arrivederci ragazzi, ciao.